as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il pane e le rose, trasmissione dei lavoratori metalmeccanici. Oggi più che mai parleremo dello sciopero del 7 di luglio, 4 ore, dei metalmeccanici italiani di FIOM, FIM e WILM. Si è svolto in buona parte dell'Italia, ci sono state varie altre manifestazioni fatte dopo. A Bologna il 7 luglio abbiamo organizzato un bellissimo presidio davanti a Rabeda Menarini, e nella puntata di oggi parleremo soprattutto della Breda, perché siamo andati lì a Rabeda Menarini, perché lo sciopero del 7 luglio, che è stato deciso a livello nazionale, siamo riusciti a coinvolgere FIM e WILM, e non è stato semplice far questo. È stato bravo De Palma, la segreteria della FIOM, a spingere. CGIL è ferma, anche gli altri sindacati confederali sono fermi. Ma davanti a una crisi, una recessione a livello europeo, soprattutto nel settore industriale, e anche in Italia si sente questa recessione che sta arrivando, perché se la Germania è in crisi, soprattutto sul comparto industriale, sappiamo benissimo le ragioni, in primis la guerra e l'embargo da Russia, ma non solo, l'inflazione alta e tutto il resto. Chiaramente l'Italia è vicina anche lei ad andare in recessione a livello industriale, e infatti Michele De Palma, poi ne parleremo nelle conclusioni, ha spiegato nel suo intervento fatto davanti a Rabeda Menarini i rischi che corre il nostro paese, il settore metalmeccanico industriale in genere. Ora, siamo andati avanti alla Breda perché la Breda è l'esempio di come il governo non voglia investire nell'industria. La Breda è un'azienda per la stragrande maggioranza a capitale pubblico, fanno autobus elettrici che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di qualsiasi governo che crede nella trasformazione green del paese, ma questo governo non sta mettendo i soldi nella Breda, li sta utilizzando per fare altro, come dandoli all'industria di armi. Nell'intervista faccio una battuta: che se la Breda producesse carri armati invece di autobus elettrici, sicuramente oggi non sarebbe in crisi, non sarebbe senza soldi per acquistare le materie prime che gli servono per produrre degli autobus di cui hanno degli ordini. Questa è la cosa più incredibile. Ci sentiamo adesso un bellissimo pezzo di Giancane e poi l'intervista a Maurizio Muzzicato, delegato della FIOM della Breda Menarini. A dopo. Gente di mare che se ne va dove gli pare, ma non qua a rubarmi il lavoro in questa giungla. Infrangi il mio sogno che era aprire un bangla, un bangla. Niente di male se resti qua, ma dai non parlarmi più di dignità. Sotterriamo rifiuti dove nascono i fiori, 1,50 euro l'ora e dopo muori. Ma fuori, ma fuori, là fuori che qui sei. Sei in un paese meraviglioso, questo è un paese meraviglioso. Meraviglioso. che se ne va dove gli pare, ma non qua a rubarmi il lavoro in questa giungla e a infrangere il sogno mio di aprire un bangla. Allora, siamo qui oggi, sciopero di 4 ore dei metalmeccanici, Bologna, FIOM, FIM e UILM, siamo venuti davanti alla Breda Menarini. Abbiamo qui il delegato della FIOM, Maurizio Muzzicato, e con lui abbiamo appena sentito il suo intervento per quello di De Palma. Eravamo davvero curiosi di sapere da te quello che è successo ieri. So che c'è stato uno sciopero, siete stati anche davanti al Ministero, insomma, raccontaci un po' come è andata. Beh, ieri abbiamo fatto 8 ore di sciopero, ci siamo recati a Roma al MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, per l'avvertenza che ci riguarda. Diciamo che c'erano molti dubbi su quanto stava succedendo a Industria Italiana Autobus, uno dei quali c'era arrivato all'orecchio il fatto che ci sarebbero state in atto delle procedure concorsuali, il che ovviamente ci ha allarmati più del solito. Noi siamo abituati purtroppo da anni ad essere in allerta, in uno stato d'allerta, ma diciamo che con questa cosa qua ci eravamo attivati a maggior ragione a richiedere con sollecito un incontro al Ministero, non ci è stato concesso e a causa di questo ci siamo recati direttamente noi come organizzazioni sindacali, come RSU, con le lavoratrici e i lavoratori sotto la sede del Ministero, appunto. Dopodiché ci hanno rassicurate su procedure concorsuali che non sono in atto. Ci hanno detto che i due soci, Industria Italiana Autobus, l'ex Breda Menarini Bus, è composta da oltre il 70% di azioni pubbliche. I soci di maggioranza sono Invitalia, che è l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, e Leonardo, che risulta essere uno dei gruppi manifatturieri più importanti d'Europa. E quindi oltre il 70% di pubblico. Considerate che noi produciamo autobus, che quindi utili per il trasporto pubblico locale, si parla di TPL, i politici si riempiono le bocche di mobilità pubblica ecosostenibile. Ecco, bene, noi siamo Industria Italiana Autobus, abbiamo oltre 1000 ordini, eppure per mancanza di materiali, quindi di liquidità, non riusciamo a produrre, siamo completamente fermi, tra l'altro non in cassa integrazione ma dentro gli stabilimenti. Ecco. L'altra cosa che noi abbiamo adesso abbiamo fatto, grazie alla FIOM, CGL Bologna, ma devo dire è uno sciopero unitario, ci siamo recati a Roma con 8 ore di sciopero, soltanto noi di Industria Italiana Autobus. Oggi abbiamo fatto a livello nazionale altre 4 ore di sciopero per i temi nazionali, quindi diciamo per il rilancio industriale, l'occupazione, gli investimenti, per la transizione sostenibile, per risolvere le crisi aperte, tra le quali la nostra, e insieme a tutti i metalmeccanici, le delegati, di Bologna, perché è stato deciso, proprio perché la nostra è un'avvertenza chiave, che questo sciopero di 4 ore si facesse davanti ai cancelli di Industria Italiana Autobus, l'ex Breda Menarini Bus. La cosa che stupisce tutti, che a me personalmente mi lascia esterrefatto, no? Hai parlato di Leonardo, Leonardo non è che è una, va benissimo, insomma, è una delle industrie italiane dove anche i lavoratori hanno degli alti stipendi. Io faccio parte del FIOM nazionale, ti dico che chiaramente i delegati di Leonardo a livello nazionale sono un'industria molto molto importante. Cioè voi avete 1000 ordini, cioè avreste 1000 autobus da fare, e questi qui non tirano fuori soldi per permettere voi di acquistare il materiale per poter costruire questi autobus che dovete consegnare. Esattamente, quello che tu mi hai appena detto è la dimostrazione che non c'è una politica industriale. Come dici tu, tu mi hai detto, te lo dicevo anch'io, Leonardo è uno dei più grandi gruppi manifatturieri non d'Italia, d'Europa, eppure i soldi ci sono, perché opera nell'aerospazio, nella difesa, nella sicurezza. Quindi pensando un po', è vero che c'è una bassa marginalità sul prodotto autobus, ma è altrettanto vero che i soldi ci sono, ci sarebbero, non li mettono. Oppure li mettono e li affidano nelle mani di persone che non sono state in grado di... Perché i soldi poi sono stati immessi, cioè negli ultimi anni oltre 150 milioni di euro, nell'ultimo, adesso se non ricordo male, nell'ultimo anno. Però c'è stata un'amministrazione, una gestione industriale nostra, interna, sbagliata, motivo per il quale abbiamo chiesto le dimissioni dell'amministratore delegato e presidente di Industria Italiana Autobus. Adesso c'è stato il CDA, qualche giorno fa, è stato nominato un nuovo amministratore delegato, vediamo quello che succede. Però noi abbiamo bisogno entro fine anno di un piano industriale, di un layout interno che da definizione dia la possibilità ai processi produttivi di andare avanti, quindi di produrre autobus e soprattutto del materiale, cioè di soldi. Ma la cosa che colpisce, non stupisce, è detto ci sono stati investiti 150 milioni. Teoricamente questi soldi dovevano servire per modernizzare, io non ricordo, per la Megnarini, ma ad oggi servono soldi per prendere dei prodotti, cioè comunque alla fine questi vostri autobus, poi voi quando li costruite i soldi dovrebbero rientrare, dunque sarebbe solo da investire. È una questione, come dici tu, di politica industriale, ma perché questo governo, visto che parliamo dello Stato, questo governo ha interessi non a costruire autobus per i civili, ma al limite se voi costruivate, secondo me, dei carri armati, è capace che i soldi arrivavano. Il problema è che questa è la politica industriale oggi, molto probabilmente in Italia, viene indirizzata verso la difesa. E anche chi vi sta gestendo questa cosa qua, molto probabilmente lo sa, e fa finta di niente. Il problema è che dalla politica a sto punto, soprattutto locale e regionale, comunque noi abbiamo bisogno di autobus elettrici a Bologna e in Emilia Romagna e in Italia, cioè che fa? Assolutamente, l'hai detto tu, cioè non c'è proprio una politica industriale ed è colpa soprattutto di questo governo, perché non che in precedenza si siano attivati in maniera importante per le politiche industriali, ma sicuramente adesso si guarda d'altro. L'hai detto tu anche questo, se invece di costruire autobus noi ci fossimo messi a costruire armi, insomma, se fossimo stati un'industria bellica, sono sicuro che ci sarebbero stati non soltanto i soldi, ma anche i piani per costruirle. Però purtroppo e per fortuna produciamo autobus anche ecosostenibili, quindi a idrogeno, elettrici, c'è un know-how, ci sono le competenze, ci sono i livelli occupazionali in grado di, ma non c'è una vera volontà. Se non c'è una volontà puoi immettere denari su denari, capitali su capitali, ma alla fine non ne salti fuori, non riesci a produrre. Infatti quello che io mi chiedo è anche il fatto che a un certo punto io vedo che autobus nuovi arrivano in città, ma non sono i vostri e non sono elettrici. E dunque una domanda che mi faccio è, non è che stanno acquistando autobus da qualcun altro, spesso anche dei privati, che ci siano degli accordi su questo, oppure fatti all'estero, che poi non sono così, allora transizione ecologica, cioè i sovranisti, cosiddetti sovranisti, in realtà stanno spingendo perché vengono da altri posti, da privati e dall'estero questi autobus. Sì, vengono acquistati anche dall'estero, ovviamente la concorrenza è tanta. Quello che dispiace è che noi siamo l'unico player, l'unico vero costruttore, non soltanto. Noi progettiamo, costruiamo, commercializziamo e facciamo service, cioè manutenzione. Quindi noi veramente abbiamo tutte le competenze e siamo l'unico player italiano che costruisce autobus. Siamo due siti, la stessa azienda, Industria Italiana Autobus, conta due stabilimenti, uno a Bologna dove siamo oggi e uno a Flumeri, provincia di Avellino. Siamo circa 170 lavoratrici e lavoratori a Bologna e 370 circa lavoratrici e lavoratori ad Avellino, quindi oltre 500 e passa. ma non c'è veramente questa volontà di acquistare autobus italiani e di far produrre autobus italiani. Questa è la vera discriminante. E questo è veramente incredibile. Io spero che riusciamo ad influenzare la politica, per questo caso è veramente la politica. Siete gli unici che veramente state difendendo questa fabbrica. Il governo purtroppo ha deluso, i politici hanno deluso, gli unici che sono qui che stanno difendendo siete voi. Noi siamo sempre al vostro fianco, abbiamo sempre detto, oggi abbiamo dimostrato con i metalmeccanici, siamo qui, la vostra battaglia è anche la nostra, anche perché se non riuscite voi, io voglio capire chi cazzo può riuscire, pensate un po'. Io ti saluto e ti auguro buona fortuna. Io ti ringrazio a nome di tutte le lavoratrici e lavoratori. Grazie Maurizio. Grazie. Allora, bellissimo pezzo degli ultimi, e favole. I lavoratori della Bella Menarini, avete sentito, non credono più alle favole, vogliono fatti concreti. Abbiamo sentito l'intervista a Maurizio Muzzicato, delegato della FIOM della Bella Menarini. Eravamo davanti alla Breda, alla fine del presidio del 7 luglio dello sciopero di 4 ore dei metalmeccanici. Ascoltato De Palma, abbiamo fatto l'intervista. Ora, abbiamo detto anche nell'introduzione, la situazione non è bella, anzi è molto preoccupante per noi lavoratori metalmeccanici. De Palma ha detto chiaramente al governo che non accetterà che il governo non si doti di una politica industriale, non metta risorse nell'industria in Italia per assicurare i posti di lavoro e per assicurare che l'industria vada avanti. Ha detto chiaramente che questo è l'inizio, questa è una cosa molto interessante. Ad ottobre molto probabilmente ci saranno delle manifestazioni a livello europeo, perché il problema dei metalmeccanici italiani non è solo dei metalmeccanici italiani, anzi i metalmeccanici tedeschi e anche in parte francesi sono, beh sì, anche forse peggio di noi su certi aspetti. Dunque, questa è la prima parte, eravamo sotto al sole, c'era caldo il 7 luglio come fa caldo oggi a Bologna, però molto probabilmente a ottobre speriamo che sia ancora più caldo, che si trasformi in un autunno caldo veramente, iniziando dagli operai metalmeccanici, ma che possa portare avanti delle rivendicazioni che non si fermino solamente al fatto che servono i soldi per l'industria e finisce là, anche perché i soldi sono stati dati tanti in questi anni. L'industria è stata finanziata, i padroni sono stati finanziati, non dimentichiamo il 4.0. Non vogliamo che si faccia la fine tipo la GKN, non so se vi ricordate la vicenda all'inizio, quando la GKN è stata super finanziata dal governo Renzi con milioni e milioni che sono finiti alla GKN per acquistare dei macchinari che poi alla fine non sono stati utilizzati. Cioè non è una questione di che dobbiamo avere solo 20 soldi, avere soldi, il problema è un altro, il problema è che i lavoratori oggi contano sempre molto meno, i sindacati contano sempre molto meno rispetto alle politiche industriali sia a livello nazionale che sia a livello locale che nelle varie aziende. E l'organizzazione del lavoro, tutto quello che viene fatto in fabbrica sempre più è lontano da quello che noi possiamo influenzare, possiamo fare. Dobbiamo recuperare questa forza. Il sindacato deve trasformarsi in uno strumento di lotta e di rivendicazione, non basta solamente chiedere, ripeto, finanziamenti per un piano industriale. Come deve essere fatto questo piano industriale? I lavoratori cosa ci guadagnano in questo piano industriale? Io spero che a ottobre la manifestazione europea porti dei contenuti importanti e come quelli che sono stati espressi anche dalla sinistra del sindacato francese, di un cambiamento radicale della società, perché solo così si possono veramente invertire queste tendenze in cui sempre di più la lotta di classe la stanno vincendo i padroni. Dobbiamo fare una controffensiva verso i padroni e ristabilire almeno una parità, perché stiamo veramente perdendo questa lotta di classe, non dappertutto, però insomma non siamo messi bene. Ecco, speriamo che di questa controffensiva arrivi il prima possibile e si trasformi in una vittoria per noi lavoratori. Ecco, alla prossima puntata. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad.